Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli. È un botta e risposta quello tra Israele e l'Unione Europea questa mattina. In mattinata Israele ha infatti convocato 4 ambasciatori, tra i quali quello italiano, Regno Unito, Francia e Spagna, per protestare di fatto con le posizioni assunte rispetto alla ripresa delle costruzioni negli insediamenti, nelle colonie appunto israeliane, nei territori. Ma su questo punto in realtà è arrivata una replica pochi momenti fa. L'Unione Europea, attraverso la portavoce, dunque quella responsabile della politica estera comune, Catherine Ashton, ribadisce che gli insediamenti sono illegali per la legge internazionale e costituiscono un ostacolo alla pace, minacciano di rendere impossibile la pace. Ed è in questo contesto che l'altro rappresentante aveva già ribadito la posizione ed ha chiesto di interrompere tutte le attività di insediamento. L'Europa invece discuterà la prossima settimana gli obiettivi climatici ed energetici per il 2030. 4 paesi, tra cui l'Italia, vorrebbero fissare al 40% il taglio alle emissioni di CO2 per quella data. Preoccupanti intanto gli ultimi dati per quanto riguarda il cambiamento del clima. È stata la BBC a diffondere per prima indiscrezioni preoccupanti sul rapporto che l'IPCC presenterà in aprile. La situazione è grave, ci ha confermato poi Riccardo Valentini, che fa parte di questo gruppo di scienziati che per le Nazioni Unite sta studiando i cambiamenti climatici. Effettivamente la traiettoria che abbiamo preso sulle emissioni di combustibili fossili è in questo momento la peggiore, diciamo, che prevista, che è quella che potrebbe portarci anche a un riscaldamento globale potenziale di 4 gradi centigradi o superiore attualmente, diciamo, senza quindi misure di mitigazione. E comunque avremo sicuramente un riscaldamento globale residuale, che è diciamo, ormai acclarato. Ma che impatto potrebbe avere un eventuale taglio delle emissioni europee del 40% entro il 2030? Se lei mi dice qual sarà l'impatto di questo sul pianeta, diciamo, in senso più ampio, direi che i risultati saranno pochi. Noi abbiamo uno share che è dell'ordine del 13-15% delle emissioni globali. Il governo italiano ha sottoscritto la lettera della Germania per la riduzione del 40% di emissioni entro il 2030, ma il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, si è detto subito in disaccordo. La lettera che abbiamo inviato al presidente Letta, peraltro non solo al presidente Letta ma anche al presidente Barroso, è una presa di posizione molto netta, molto chiara, che questo limite del 40% di riduzione della CO2, delle emissioni di CO2, del 40% in più di efficienza e del 40% di energie rinnovabili sarà catastrofico per la competitività del sistema manifatturiero italiano. Molto critica, ma con la lettera di Confindustria, è anche la presidente dei Verdi Europei, Monica Frassoni. La trovo fuorviante, sbagliata e molto grave. L'industria italiana ed europea si può salvare solamente se trae le conseguenze dal fatto che le risorse sono scarse, che bisogna ridurre le emissioni, ma non perché è virtuoso, è proprio una questione di salvezza dell'umanità. L'Agenzia Internazionale dell'Energia dice in modo molto chiaro che l'aumento dei prezzi dell'energia non è dovuto né alle rinnovabili né agli investimenti in efficienza energetica, ma è dovuto all'aumento dei prezzi dei fossili. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E naturalmente ci torneremo anche su questo dossier davvero importante. In conclusione, nella prossima settimana ci sono importanti appuntamenti di politica estera a Bruxelles. Uno dei temi che verrà affrontato è quello del vertice Unione Europea-Russia per il 28 gennaio. Infatti, come dire, brucia ancora la ferita di quanto accaduto a Vilnius, quando, ricordate, di fatto l'Unione Europea ha visto svanire la possibilità di chiudere un accordo particolare molto stretto con l'Ucraina a favore, accordo invece che è stato di fatto stretto da Mosca con Kiev stesso. Le posizioni sono divergenti su come proseguire il dialogo Unione Europea-Russia. Per questo lunedì prossimo ci sarà un incontro interno del Consiglio Affari Esteri per determinare questo percorso, e nella stessa occasione si valuterà anche quello che viene già definito una vera e propria svolta nei rapporti con L'Avana, perché se è vero che i rapporti sono freddi, se non gelidi, con gli Stati Uniti, ci sono parecchie complessità anche con Bruxelles, che in molti ora ritengono sia ora di affrontare e risolvere. Con questo è tutto. Europa 24 torna lunedì. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.